Come abbiamo visto nelle scorse lezioni, qui di Gemara, questo capitolo si dedica soprattutto ad applicare la mitzvah dello Shema al quotidiano, prendendo in considerazione le diverse situazioni specifiche che possono nascere e per cercare di definire qual è il criterio base per uscire l'obbligo della mitzvah dello Shema. Nello specifico siamo sulla pagina 13b e in particolare al punto Amar Rav Natan Bar Mar Ukva. Nella traduzione ce l'abbiamo a pagina 13 e qui ce l'abbiamo un po' dopo la metà della pagina, Amar Rav Natan. Allora, disse Rav Natan Bar Marukva, figlio di Marukva, Amar Rav Yehuda, a nome, sempre questi sono nomi di Amoraim, di maestri del Talmud babilonesi, della Babilonia, disse a nome di Rav Yehuda, è scritto nello Shema al Levavecha. Queste parole siano poste sul tuo cuore. E Rav Yehuda ci dice Ba'amida. Queste parole vanno dette mentre si rimane sul posto, letteralmente in piedi, cioè fermandosi sul posto. In altre parole, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di lo Shema è una mitzvah che è legata al tempo. Allora può darsi che una persona si stia occupando di qualcosa e poi arriva il tempo dello Shema. Se la persona sta lavorando, sta, in questo caso si parla di uno che sta in movimento, sta camminando, come bisogna fare? Le parole Ale Vavecha bisogna recitarle stando sul posto, Bamida. Fermandosi. Ok? La Gemara subito si chiede, Ale vavecha, salka datach? Solamente per le parole Ale vavecha uno deve fermarsi? Salka datach vuol dire ti sale in mente. Perché pensi che ha senso fermarsi solo per queste parole? Quello che intendeva dire Rav Yehuda, la Gemara subito aggiunge le parole, spiega, e la Ema solamente dovresti citare questo detto dicendo, Ema vuol dire di, solamente di, ad alle vavecha, fino alle parole alle vavecha, cioè da Shema Israel, fino ad arrivare alle parole alle vavecha, uno si deve fermare. E poi può proseguire il suo cammino e recitare il resto dello Shema mentre cammina. Ovviamente stiamo parlando di una indicazione per garantire più che altro la intenzione, la concentrazione nel momento in cui si recita lo Shema. Quando una persona sta camminando, è in movimento, è chiaro che ha più difficoltà a fare questo. A tenere concentrata la mente su quello che sta dicendo, e quindi il criterio secondo Rav Yehuda, come è stato citato da Rav Natan, figlio di Marukva, è dall'inizio fino a alle vavecha. Mikan veilach, da questo punto in poi, dice lo tzari, lo, non serve rimanere in piedi. O rimanere fermo, ok? Bene. Questa è l'opinione di Rav Natan. Però, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dice, Kol ha-parasha kula ba'amida, serve rimanere fermi, ba'amida, posti sul posto, rimanersi sul posto per Kol ha-parasha kulla. Tutta l'intera prima parasha, cioè primo brano dello Shema. Fermi. Fermi. Se si è in movimento. Se si è in movimento, certo, certo, certo. Ora la Gemara conclude questo brano dicendo così. Ve'azda Rabbi Yochanan letamei. Rabbi Yochanan, dicendo questo, che deve rimanere per tutto lo Shema, per tutto il primo brano dello Shema fermo, è coerente con la sua visione in generale, perché abbiamo già citato Rabbi Yochanan prima su un'altra cosa, vi ricordate? Abbiamo citato Rabbi Yochanan, dove lui diceva che l'Alaha segue Rabbi Acha, che diceva a nome di Rabbi Yehuda, che cosa? Che la mitzvah della Kavanah riguarda tutto il primo brano, non come abbiamo visto altre opinioni, sì, in cui una diceva Rabbi Meir solamente il primo versetto, e un'altra diceva Rabbi Akiva fino ad Alev Avecha. Poi si citava Rabbi Yehuda che diceva tutto il primo brano, è necessaria la Kavanah, e Rabba Bar Bar Chana diceva a nome di questo stesso nostro Rabbi Yochanan che citiamo adesso, che questa è l'alaha, bisogna fare per tutto il brano, almeno come criterio minimo, la Kavanah, l'intenzione, la concentrazione, e di conseguenza capiamo anche questa sua opinione nel nostro caso della Amidah, cioè del rimanere fermi, non confondiamo con Amidah della Tefilah, del rimanere fermi per massimizzare la concentrazione. Qual è il criterio secondo lui? Anche qui ovviamente la stessa cosa per tutto il primo brano. Questo ve'azda Rabbi Yochanan letamei, Rabbi Yochanan va secondo la sua motivazione, Rabbi Yochanan è coerente con altre sue posizioni. È una cosa che la Gemara spesso cerca di fare, che noi troviamo molte opinioni nel Talmud, e il nostro compito nel capire la Gemara non è di avere un maggiore numero di opinioni e di discussioni, ma di cercare di limitare il più possibile questo numero, cercando anche di capire che in molti casi diverse discussioni sono in realtà un'unica discussione con diversi risvolti. Quindi in questo caso abbiamo due indicazioni che sono in realtà un'indicazione sola che si esprime in due maniere. L'indicazione è unica in questa opinione della Rabbi Yochanan, ovvero che la Kavanah è necessaria per tutto il primo brano. Di conseguenza troviamo questa idea in quello che abbiamo citato prima di Rabbi Yehuda, che la Kavanah appunto è necessaria per tutto il primo brano. E troviamo anche nell'Alaha che, secondo lui, uno dovrebbe rimanere fermo, se è in movimento, per tutto il primo brano. È la stessa cosa, si esprime in due Alachot. Ora però, abbiamo già visto la scorsa volta che l'Alaha finale codificata riguardo la Kavanah, il criterio base della Kavanah, qual è? Solamente non il primo brano, ma il primo versetto. Primo verso. Shema Israel. Sì, questo avevamo visto. Di conseguenza, la halakha di dover rimanere fermi come minimo nel caso si fosse in movimento, in realtà, alla fine della halakha codificata, riguarda anche solamente il primo versetto. Cioè la halakha, in questa discussione nostra di oggi tra Rav Natan e Rabbi Yochanan, segue Rav Natan, ovvero che non bisogna stare fermi per tutto il brano, ma Rav Natan parlava di fino ad Alev Avecha. Allora noi seguiamo Rav Natan per ciò che riguarda il fatto che bisogna stare fermi, ma non lo seguiamo fino ad Alev Avecha, lo seguiamo fino a Shema Israel, solamente il primo versetto, perché già abbiamo confermato che la Halakha riguardo la Kavanah come criterio minimo richiede solamente il primo versetto. Scusa, quando dice stare fermi, stare in piedi o seduti è indifferente? Sì. Si può fare con te? Sì. È un po' come il concetto che se detto proprio, ma solo per rendere l'idea, che se uno sta muovendo nel tempio, sente la caduccia dove sta si ferma. Una cosa simile, insomma, un concetto simile. Lì se sta facendo dell'altro si deve fermare. Però ma non c'è una cosa dello sciamano in generale che dovrebbe essere fatto da seduti proprio per la concentrazione, no? Non no. C'entra. Quella è un'altra cosa. Da questa situazione. È vero che a differenza dell'Amidah, nel contesto di Tefilà, lo Shema normalmente si fa da seduti. Però è fuori da questo contesto che stiamo parlando adesso. Non è una raccomandazione stare seduti. No, si concentra anche. Sì, dicevo al di là di questa situazione che stiamo vedendo. Ok. Scusate, ma abbiamo una piccola crisi al GAN. Ok. Non c'è elettricità. Benissimo. Allora, oggi continuiamo con il prossimo brano. Tanura Banan. Qual è la parola codice Tanura Banan? Il consiglio dei Tanura Banan. No. Sì, hanno insegnato i nostri maestri è la traduzione delle parole Tanura Banan, bene, e a che cosa si il codice, cosa ci stanno dicendo quando si dice Tanura Banan, che tipo di insegnamento siamo per citare? I maestri della Mishnah in quale contesto? Abbiamo studiato già. Quando si dice Detania o quando si dice Tanura Banan, vuol dire che stiamo per citare una baraita. Un'opinione. No, non vuol dire un'opinione. No, no. Baraita una baraita vuol dire una fonte autorevole dei Tanaim, dei stessi maestri della Mishnah, ma che non è entrata a far parte della Mishnah stessa. È come un allargamento, sta fuori dalla Mishnah. Tanu Rabbanan, i maestri insegnarono. Cosa insegnarono i maestri? Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Questo è il primo versetto dello Shema. Non è questo che ci insegna la Baraita. La Baraita cita questo versetto e dice Zo Kiriat Shema Shel Rabbi Yehuda Hanasi. Questo versetto è lo Shema di Rabbi Yehuda Hanasi, il redattore della Mishnah, Rabbi. Che vuol dire? Lui non aveva tutto lo Shema, aveva solo questo versetto qua. Stiamo parlando di una situazione in cui Rabbi Yehuda Hanasi faceva lezione, stava insegnando la Torah. Prima da quando arrivasse l'orario dell'obbligo di lettura dello Shema. Quando arrivava l'orario, questa baraita ci sta dicendo che lui leggeva solamente questo primo versetto. E con questo usciva l'obbligo. Ok? Amar lei, ora questa è la baraita. Ora un testimone che era presente alle lezioni di Rabbi Yehuda Hanasi, però è considerato è della prossima generazione all'aspetto nel senso del suo insegnamento, cioè è la prima generazione degli Amoraim, questo allievo che adesso vediamo, lo chiamiamo Rav. Rav è chiamato Rav per eccellenza. Era quello che più di qualcun altro, di qualsiasi altra persona, portò la Torah in Babilonia, in quell'epoca. Amarlei Rav le Rabbi Chiya. Rav disse a Rabbi Chiya. Anche Rabbi Chiya era un allievo di Rabbi Yehuda Hanasi. Lo Hazena, non ho visto. Lei le Rabbi, non ho visto che Rabbi deme cabella le malchuchamai. Non ho mai visto che Rabbi in questa situazione della lezione, quando arrivava il tempo dello Shema, accetta su di sé il giogo del regno celeste. Come un modo di dire, non ho visto che recita lo Shema. Recitare lo Shema è l'accettazione del giogo del regno celeste, dell'autorità di HaKadosh Baruch Hu su di noi. Non ho mai visto che lui recita lo Shema. Nella Baraita c'è scritto che lui diceva il primo versetto. Lui dice, io neanche questo ho visto. Com'è possibile? Però questa era quello che la sua esperienza. Lui aveva visto così. Allora Rabbi Chia gli dice così. Amar lei gli rispose, letteralmente gli disse, Bar Pachte, figlio di nobili, cioè un titolo di importanza nei suoi riguardi di Rav, gli disse, Beshaa Shemavir Yadav al Panav, nel momento in cui Rabbi Yudana sì, passa la mano sul volto, così, fa così, no? Come uno che dice, passa la mano sul volto, in quel momento mekabela la vol malchut shamayim. Quel momento gli è sufficiente per accettare su di sé il giogo del regno divino. In altre parole, siccome, come dice la Baraita, per Rabbi in quella situazione bastava solamente il primo versetto, può darsi che tu non sei stato in grado di seguire che lui anche in maniera un po'... un po', come dire, sotto, un pochino clandestina, diciamo, subdola. Lui facendo in maniera subdola, bravo, facendo qualche movimento, ma mentre lo faceva, diceva questo primo versetto per uscire l'obbligo dello Shema, e magari voi neanche ve ne siete resi conto. Ok? Però questo primo versetto lo diceva. C'è chi dice che da qui deriva la fonte per la quale noi copriamo gli occhi quando diciamo il primo versetto Shema. Cioè questo mettere la mano sul volto è quello di, per un attimo, distogliere l'attenzione da qualsiasi altra cosa e invece concentrarsi sul contenuto di questa mitzvah, della lettura dello Shema, dell'accettazione del gioco del regno divino. Così alcuni spiegano. E per altri, mentre si dice lo Shema, bisognerebbe, al contrario, girare gli occhi, lo sguardo su tutte le direzioni, come per dire che HaKadosh Baruch Hu è ovunque, noi accettiamo questo regno ovunque. In un modo o nell'altro, Rabbi Chia diceva a Rav, certo che lui lo faceva, solo che tu non ti sei reso conto perché lui gli basta che passare la mano e vede e già fa questa mitzvah. Ora la domanda è se lui doveva poi dopo la lezione ripetere tutto lo Shema, com'era il suo comportamento? Lo faceva o no? Allora la Gemara discute su questo. Ma dice così, Choser ve gomra, Choser torna a ripeterla, gomra, concluderla, a finire tutto lo Shema dopo, o no Choser ve gomra, oppure non tornava, non è obbligato a tornare a ripeterla. Allora, Bar Kappara, uno dei grandi maestri, che il suo nome era Shimon, ma si chiama sempre per il suo nome di suo padre, Bar Kappara, come dire il suo cognome, figlio di Kappara, diceva, e no Choser ve gomra, no, lui dopo la lezione non tornava a concludere lo Shema. Mentre invece Rabbi Shimon, il figlio di Rabbi, che è il soggetto della nostra domanda, Omer dice, Choser ve gomra. Sì che tornava a ripeterla, a concludere tutta la tutto lo scema. Ora, Bar Kappara, anche se il figlio di Rabbi gli ha detto che il padre sì lo concludeva e lo tornava a finire, non è ancora d'accordo. Dice, scusa, aspetta un attimo. Non è così chiara ancora questa cosa. Amar lei Bar Kappara le Rabbi Shimon be Rabbi. Disse Bar Kappara a Rabbi Shimon, figlio di Rabbi. Bishlama le didi. Bishlama vuol dire va bene, come shalom, pace, no? Va bene le didi secondo me. Bishlama è un modo di dire quello che adesso dirò va bene, a differenza di un'altra cosa, un'altra opinione che non andrebbe bene. In altre parole, ho un modo per confermare che ho ragione io. Qual è il modo? Bishlama le didi. Va bene secondo me, de amina, che io dissi, e in ojo serve gombra, che lui non tornava a concludere lo Shema. Qual è la cosa che conferma la mia posizione, la mia opinione? Hainu, è questo il motivo per cui di Madar Rabbi Ashmata de Itba Yetziat Mitzrayim, traduco, che Rabbi tornava o cercava Shemata, Shemata vuol dire un insegnamento, Shemua, una cosa che si sente, quindi un insegnamento di Torah orale, de Itba, nella quale c'è riferimento a Yetziat Mitzrayim, all'uscita dall'Egitto. Praticamente Bar Kappara sta dicendo che quando Rabbi faceva questa cosa e arrivava il momento dello Shema, insegnava anche una halakha, sempre cercava una halakha da insegnare, che era legata in qualche maniera al Yetziat Mitzrayim, all'uscita dall'Egitto. Come se invece di leggere il brano di Vayomer, terzo brano dello Shema, in cui si parla dell'uscita dell'Egitto dei Tzitzit, siccome stava facendo lezione, appunto usciva l'obbligo dello Shema solo con il primo versetto, però sempre parlava subito anche di qualcosa di Yetziat Mitzrayim, come per dire, come per rientrare anche in questa cosa. Allora Bar Kappara dice a Rabbi Shimon, il figlio di Rabbi, dice, ovviamente poi non ripeteva tutto lo Shema, perché cercava questa halakha che riguardava l'uscita dall'Egitto proprio per rientrare in un'altra maniera in questa mitzvah. Quindi evidentemente non doveva poi ripetere tutto lo Shema. E la Lady Dach, ma secondo te, disse Bar Kappara, De Amrat Choser Vegomra, che dici che lui invece tornava e la ripeteva e la concludeva tutta, la parasha, lo Shema, Lamalele Adure, perché deve andare a cercare un halakha sempre che riguarda questa cosa? Si appoggia al fatto che poi ripete lo Shema. Allora gli è stato risposto a Bar Kappara, che dei le hazkir yetziat mitzrayim bismana. Rabbi Shimon, il figlio di Rabbi, risponde al Bar Kappara e gli dice, è per doveva comunque ricordare l'uscita dall'Egitto, anche se poi invece in realtà ripeteva tutto lo Shema, perché le hazkir, per menzionare la mitzvah di ricordare l'uscita dall'Egitto, bismana, nel tempo dovuto per lo Shema. Vuol dire, può darsi che la lezione continuava ancora dopo che già scade l'orario dello Shema, e quindi si ripeteva lo Shema, perché voleva comunque leggere tutto lo Shema. Ma il tempo era già scaduto, vedremo più avanti qual è la validità della lettura dello Shema dopo il tempo scaduto. Però, perché il tempo sarebbe stato scaduto, voleva comunque rientrare anche non solo nel primo versetto dell'accettazione del gioco, ma anche del ricordo del Yetziat Mitzrayim, dell'uscita dall'Egitto, entro il tempo della mitzvah dello Shema. E quindi dice, non è una contraddizione, poteva sia ripetere che anche cercare la halakha che riguardava lo Shema per non uscire fuori dal contesto della lezione in cui si insegnava halakha, ma al tempo stesso anche rientrare nel tempo, nell'orario di ricordare questa cosa durante lo Shema. Quello che leggeva il Sefer? Ah, sì, bravo. Come la prima lezione. Come la prima lezione. Ok. Ora, in questo riguardo, aggiungiamo un altro aspetto di halakha. riguardo a che cosa? Nel contesto in cui parliamo che la parte più essenziale per uscire l'obbligo dello Shema è primo versetto Shema Israel. Allora Gemara aggiunge un'altra halakha e dice Amar Rabbi Ila Bered Rav Shmuel Bar Marta. Disse Rabbi Ila a nome di Rav Shmuel Bar Marta Mishme de Rav, a nome di Rav, quello che abbiamo citato prima che parlava della sua esperienza alla lezione di Rabbi Udanasi, no? Rav Amar, se una persona avesse detto Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, cioè è il momento della lettura dello Shema e lui legge lo Shema, magari è molto tardi, la notte sta per scadere il tempo, lui si ricorda, oh, devo dire lo Shema, ok, è molto stanco, dice lo Shema, ma dice solo il primo versetto, Venenas Beshena, e poi è preso dal sonno, si addormenta. Capita di leggere una frase su un libro e poi addormentare? Sì. Certo che capita. Allora lui è capitato, si è ricordato di dire Shema Israel Hashem Elokeinu Echad, boom, si è addormentato. Allora viene qui riportato a nome di Rav Yatza. Esce l'obbligo della mitzvah. Una fonte parallela, diciamo, che parla dell'idea che si esce l'obbligo dello Shema anche solamente col primo versetto. Amar le Rav Nachman le Daru Avdei, troviamo anche un'altra fonte parallela, dove un altro maestro della Gemara, un Amorà, Rav Nachman, disse al suo schiavo, che si chiamava Daru, gli disse così, se dovessi vedere che io mi addormento mentre recito lo Shema, disse Rav Nachman al suo schiavo, Bipsuka Kama, se sto leggendo il primo versetto, Pesuka, Pasuk, versetto, Kama, il primo, Tsa'aran, disturbami, cioè risvegliami, non farmi addormentare. Però Tfe, di più, cioè se sono già più avanti dal primo versetto, allora Late Tsa'aran, non disturbarmi. Se mi addormento, mi addormento. Questo è proprio ebraico, sono schiavo. E certo. Se no come faceva, scusa. Certo che sapeva. Amar lei Rav Yosef, le Rav Yosef Breder Rabba. Disse Rav Yosef a un altro omonimo Rav Yosef, che era il figlio di Rabba, uno dei grandi maestri della Gemara, di Amoraim. Gli disse, tuo padre Rabba, Avuch, Avuch, tuo padre, Hechi Hava Aved, come si comportava? Ciò che riguarda questa halakha qui, se dovesse essersi addormentato, allora gli rispose Rav Yosef, all'altro Rav Yosef, mio papà Marley, Bifsuka Kama, se capitava questo problema nel primo versetto, durante la lettura del primo versetto, o prima di leggere il primo versetto, o durante, Hava Kametza Er Nafshei, allora si... si disturbava di farsi risvegliare, si impegnava per far sì che anche in un caso di sonno fortissimo comunque il primo verso andava recitato. Fe, ma più di questo l'ahava mezzar nafshei, non si disturbava più di tanto se aveva necessità di cadere nel sonno, che di sprofondare in quel sonno. Allora se avesse già letto il primo versetto non si teneva, si lasciava se stesso addormentarsi. Non è inteso che lui si autoinfastidiva per tenersi sveglio, lo si infastidiva. Qui dice si autoinfastidiva. Si autoinfastidiva. Sì, mezzer nafshe, nafshe vuol dire a sé. Sì, sì, sì. No, chiedevo perché in ebraico non sono riuscito. Questo dico, nafshe vuol dire verso di sé. Forse non esclude che lo faceva in un altro modo, però la parola vuol dire questo. Sì, qui vuol dire. Allora, torniamo un attimino alla prima halakha che abbiamo visto oggi riguardo quello che bisogna stare fermi almeno per il primo versetto dello Shema. Il commento del Tosafot dice quello che anche ci siamo detti, però dice esplicitamente citando il Talmud di Rushalmi, quando la Gemara dice bisogna farlo ba'amida, che letteralmente vuol dire in piedi, non è inteso per dire che se sei seduto devi alzarti. No. È inteso per dire che se stai camminando devi fermarti. Come diceva Nietzsche. Quindi esatto, quello sto tornando lì. Bisogna fermarsi da un movimento, non stare in piedi da una posizione da seduto. Ok? E cita anche altre fonti parallele che dicono: è vietato accettare il regno del gioco, cioè il gioco del regno celeste su di sé mentre si cammina, bensì bisogna fermarsi e leggere, cioè recitare quel primo versetto, e quando arriva a Veahavta può proseguire il proprio cammino. Questa è l'alaha finale. Quello che abbiamo iniziato prima. Quello che adesso dico, sì. Come? Sì. Fino a Veahavta bisogna fermarsi. Ok, signori, scusate, ma oggi ci fermiamo qui. Sì, poi... Grazie.